In collegamento telefonico Tino Franco nel Blue Studios per effetti collaterali del FantaFestival 2018 a Roma, a Palazzo Merulana, dal 19 al 23 luglio. Tino, ben trovato. Ciao Federico. Ci racconti? Allora, guarda, è una nuova occasione per la città di Roma, nel senso che da un mese e mezzo ha aperto questo splendido Palazzo Merulana, che è uno spazio molto aperto, nonostante sia uno spazio privato, però è uno spazio che è nato con l'intenzione di aprirsi alla città, alle associazioni, dato che c'è stata un'assemblea pubblica un mesetto fa dove tutte le associazioni che lavorano nella cultura, ma abbastanza trasversalmente, nel senso dal teatro al cinema, alla musica, alla presentazione dei libri, hanno partecipato a una sorta di disponibilità di proposte. E grazie, devo dire, all'impegno di Andrea Valeri, che è l'ex assessore alla cultura del primo municipio e che adesso ha cominciato questa nuova avventura, perché praticamente lui fa un po' da collettore di tutte queste associazioni, si possono fare delle proposte. Quindi io lo dico anche a chi è in ascolto e magari ha intenzione di fare delle proposte culturali, loro sono molto aperti, sono molto ricettivi. Lo spazio, dicevo, è uno spazio privato, però è stato fatto con l'intenzione di mettere un po' a disposizione un patrimonio, prima di tutto di opere di arte moderna, cioè c'è la scuola romana, ci sono delle opere di Chirico, Capograssi, insomma tutte cose molto, molto importanti, molto belle da vedere. In più lo spazio è anche piacevole perché ha delle sale, diciamo, convegnistiche, e dove organizzeremo anche uno spazio esterno, un'arena estiva, una piccola arena estiva. Questa arena estiva io mi sono un po' occupato con l'associazione Blue Studios di consigliare e convogliare le esperienze dei festival storici romani che soffrono di più una disattenzione da parte delle istituzioni, praticamente continuano a esistere anche se hanno pochissimo budget, quasi nullo, e che sono appunto il Fantafestival e Asiatica, che nonostante l'esperienza e la tradizione non hanno molto ascolto. E lì dentro noi faremo noi gli effetti collaterali del Fantafestival, che è una cosa che porta avanti per 3-4 anni, che sono gli approfondimenti sui temi del fantastico, mentre invece Italo Spinelli con Asiatica porterà alcune produzioni anche poco viste, perché ecco, è l'occasione sia per il Fantafestival che per Asiatica di mostrare il cinema un po' invisibile. Ed è per quello che poi a metà di agosto noi cominciamo praticamente stasera, e invito tutti quanti a partecipare perché faremo una sorta di festona di inaugurazione, perché è la prima volta che questo spazio viene utilizzato per fare arena, per fare cinema. E la cosa poi continuerà fino al 13 agosto, proiettando anche cinema italiano d'autore poco visto o per niente visto, e questo in collaborazione con l'ANAC, che è l'Associazione Nazionale Autori Cinematografici, con la quale io collaboro da anni, e anche con questa noi ci siamo preoccupati di diffondere un po' il prodotto italiano, che è un po' più sommerso, un po' più difficile. Questo per darti Un quadro. un po' il quadro, sì. Poi andando nel dettaglio, diciamo che noi stasera facciamo quasi, cioè noi insomma abbiamo intenzione di omaggiare quello che per noi è uno dei grandi autori italiani viventi, che ha fatto tanto sia nel fantastico ma anche nel cinema d'inchiesta, nella commedia, insomma Ugo Gregoretti è un maestro del cinema, lui è poco identificato col fantastico ma ha fatto parecchie cose. Anche molto divertenti, devo dire. Infatti è stato uno dei primi che ha utilizzato anche la commedia nel genere della fantascienza, della fantasia. E quindi lo omaggiamo, e ci sarà il figlio di Ugo e il figlio Di Cristaldi. di Cristaldi, sì. Cristaldi è stato un produttore importante italiano. Ha prodotto film bellissimi, ma soprattutto accompagnava gli autori in una maniera particolare che purtroppo se ne sente la mancanza di Bruzzo, dico sì, e lui parlerà un po' del rapporto tra lui e Ugo Gregorini. Dopodiché, insomma, noi continueremo con il prodotto italiano fantastico, che è una cosa un po' particolare perché quando si pensa alla fantascienza, all'horror, si pensa sempre al prodotto straniero. Invece in Italia c'è un fermento molto grosso da questo punto di vista e ci sono tantissime produzioni indipendenti, cioè il cinema indipendente gioca molto col genere e fanno dei prodotti, diciamo, pregevoli. Quindi noi proporremo solo prodotto italiano di genere e questo è un po' una scommessa e speriamo, insomma, che questo abbia un'attenzione. Almeno noi gli abbiamo sempre dato attenzione come Sì. Fantafestival e l'abbiamo sempre premiato, anche in confronto con produzioni molto più ricche che vengono dall'estero. Tino, Poi per tutta la programmazione ci lasci riferimenti internet? vorrei darveli, ma in questo momento comunque se mettete Palazzo Merulana trovate tutto il programma su Ok, internet. perfetto. E niente, lì appunto noi saremo come Fantafestival fino al 23 luglio, poi dal Tutte le 25 sere? al 30 c'è Asiatica e poi continueremo, però insomma vienici a trovare, nel Sì. senso che quella è la situazione migliore per capire la qualità della proposta che facciamo, che adesso dico può essere veramente interessante. Ecco. Dal 19 al 23 tutte le sere? Tutte le sere alla presenza degli autori, ecco, questa è un'altra cosa che ci tengo, se ha un senso fare queste cose significa anche far incontrare gli autori con il loro pubblico. Ognuno di noi che fa questo lavoro, io pure, insomma, le volte che ho fatto le mie produzioni, eccetera, ho cercato di incontrare un pubblico, ho cercato in confronto, ho cercato di capire la direzione te la dà anche il pubblico e quindi è importantissimo questo rapporto, questo rimpallo che c'è. E Benissimo. stasera purtroppo Ugo non sta benissimo, quindi non verrà, però verrà il figlio e verrà il figlio di Cristaldi, quindi diciamo in questo modo diciamo, raccontiamo un po' il suo lavoro e poi da domani, tutte le sere per tutte queste proposte, ci saranno gli autori dei film o gli attori del film. Bene, effetti collaterali del Fantafestival 2018 a Roma, Palazzo Merulana dal 19 al 23 luglio. Un saluto e un ringraziamento a Tino Franco dell'associazione Nel Blu Studios. Tino, ci vediamo stasera. Ciao. Ok, grazie, ti aspetto.